Ad alta voce. Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed. Traduzione di Barbara Gambaccini. Il mattino del 31 dicembre, il Rabochi Put pubblicò la prima lettera ai compagni di Lenin, che tutt'oggi rappresenta uno dei testi più audaci di agitazione politica, dove Lenin espose gli argomenti in favore dell'insurrezione. O passiamo dalla parte di Lieber e Dan, rinunciando al motto «tutto il potere ai Soviet», o ci ribelliamo. Non vi possono essere vie di mezzo. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, il capo dei cadetti, Miliukov, fece un brillante quanto spiacevole discorso al Consiglio della Repubblica, in cui stigmatizzava la tedescofilia del nakaz di Shkobeliev, annunciando come la democrazia rivoluzionaria stesse mandando il paese alla rovina. Infine schernì Tereshenko, affermando di preferire la diplomazia tedesca a quella russa. Di fronte a quelle parole, tutta la sinistra fu scossa da un brivido. Il governo non poteva ignorare i molteplici successi della propaganda bolscevica. Il 29, una commissione composta da rappresentanti del governo e del Consiglio della Repubblica redasse frettolosamente due progetti di legge. Il primo accordava, seppur temporaneamente, la terra ai contadini. Il secondo lasciava trasparire l'adozione di un'efficace politica di pace. Il giorno successivo, Kerensky abolì la pena di morte nell'esercito e una prima solenne seduta della nuova commissione ebbe luogo allo scopo di rafforzare il regime repubblicano e combattere anarchia e controrivoluzione. Di essa la storia non reca alcuna traccia. Il mattino seguente, in compagnia di due colleghi, intervistai Kerensky. Fu l'ultimo colloquio che egli concesse alla stampa. Il popolo russo, affermò amaramente, è stanco, è disilluso nei confronti degli alleati. Il mondo ritiene che la rivoluzione stia per giungere al termine. Non ingannatevi, è appena cominciata. Parole che si rivelarono più profetiche di quanto fossero le sue intenzioni. La riunione dei Soviet di Pietrogrado, alla quale presi parte il 30 ottobre, perdurò tutta la notte e fu particolarmente tumultuosa. Innumerevoli i socialisti moderati, gli intellettuali, gli ufficiali, i rappresentanti dei comitati dell'esercito e dello JIC intervenuti. Innanzi a loro, operai, contadini, soldati, tutte persone semplici ma animate da un'inestinguibile passione. Un contadino raccontò i disordini di Tver, insorti a seguito dell'arresto dei comitati agrari. «Dietro Kerensky si celano i grossi proprietari terrieri!» gridò. «Costoro, realizzato che con l'assemblea costituente ci verranno assegnate le terre, tentano di impedirne la convocazione!» Un meccanico delle officine Putilov spiegò che la mancanza di carbone e materie prime era solo una scusa accampata dai direttori per chiudere le fabbriche. Il comitato operaio ne aveva infatti scoperte enormi riserve nascoste. «È una provocazione», ribadì. «Vogliono ridurci alla fame o invogliarci a commettere atti criminali». Uno dei soldati prese la parola. «Compagni, vi porto il saluto di tutti coloro che laggiù scavano trincee, consapevoli di come esse si trasformeranno nelle loro tombe». Quando un giovane soldato, alto, lo sguardo scintillante, si levò, fu accolto da un'ondata di entusiasmo. Era Chudnovsky, della cui morte nei combattimenti di luglio era giunta notizia. «La maggior parte dei soldati non ha più fiducia nei capi, perfino i comitati dell'esercito, rifiutandosi di riunire il nostro Soviet, sono colpevoli di tradimento. I soldati esigono che l'assemblea costituente si riunisca alla data fissata, che nessuno osi rinviarla. Ricordate che le nostre minacce non sono vane. L'esercito è ancora munito di cannoni». Proseguì poi dilungandosi sulla campagna elettorale che infuriava nella quinta armata. «Gli ufficiali, soprattutto menscevichi e socialisti rivoluzionari, stanno sistematicamente operando per la liquidazione del partito bolscevico. La circolazione dei nostri giornali è vietata e i nostri oratori vengono messi agli arresti. Perché non parlate anche della mancanza di pane?» interruppe un altro soldato. «Non si vive di solo pane», rispose Chudnovsky. Fu poi il turno di un ufficiale, un menscevico delegato del Soviet di Vitebsk. Non ha importanza chi al momento detenga il potere. La questione fondamentale non è il governo, ma la guerra. Nessun cambiamento è possibile se prima non vinceremo questo conflitto. Fischi ed esclamazioni ironiche. Gli agitatori bolscevichi sono meri demagoghi. Queste parole furono accolte da fragorose risate. Dimentichiamo per un momento la lotta di classe. Non poté continuare. Una voce lo interruppe. Questo è quanto vorresti. Pietrogrado mostrava in quei giorni uno spettacolo curioso. Nelle fabbriche, i locali dei comitati erano stipati di fucili, i corrieri andavano e venivano, le guardie rosse si dedicavano alle esercitazioni. Nelle caserme ogni notte si tenevano comizi e interminabili e accorate discussioni scandivano lo scorrere delle giornate. Nelle strade ogni sera la folla si dirigeva in lente ondate sulla prospettiva Nevskij disputandosi i giornali. Rapine a mano armata erano perpetrate in qualsiasi momento, rendendo pericoloso perfino camminare lungo le strade. Nella Sadovaia, a pomeriggio inoltrato, io stesso ho potuto vedere parecchie centinaia di persone inseguire e picchiare un soldato colto nell'atto di rubare. Individui misteriosi circuivano le donne nelle lunghe code per il pane e per il latte, insinuando che gli ebrei si erano impossessati delle provviste di viveri e i membri dei Soviet si concedevano ogni lusso mentre il popolo moriva di fame. All'ingresso dell'istituto Smolny, così come lungo la cancellata esterna, una guardia esaminava scrupolosamente i lasciapassare. Giorno e notte le sale riunioni pullulavano di vita. Centinaia di operai e di soldati non si allontanavano neppure per dormire, accontentandosi di sdraiarsi sul pavimento per qualche ora di riposo. Al primo piano un migliaio di uditori partecipavano alle burrascose sedute dei Soviet di Pietrogrado. Nei club, dove si giocava ininterrottamente dal crepuscolo all'alba, lo champagne scorreva a fiumi e la posta in gioco raggiungeva i 20.000 rubli. In centro, prostitute ricoperte di brillanti, lussuose pellicce affollavano ogni notte strade e caffè, complotti monarchici, spie tedesche, contrabbandieri dediti allo Schipiani. Sotto la perenne pioggia che scaturiva dal cielo immancabilmente grigio, la grande e palpitante capitale, avvolta dal gelo, accelerava la sua corsa. Verso cosa? Il 2 novembre solo 15 delegati erano arrivati al congresso dei Soviet. Il giorno seguente il numero salì a 100, quello successivo a 175, di cui 103 bolscevichi. Per avere il numero legale ne occorrevano però 400 e mancavano solo 3 giorni alla data stabilita. Trascorrevo molto tempo a Smolny. L'accesso alla cancellata esterna, dapprima garantito a tutti, veniva ora controllato da una doppia fila di sentinelle e l'ingresso, previa presentazione della propria carta di identità e dichiarazione della propria occupazione, era consentito a gruppi di massimo 4 persone. Il lasciapassare ricevuto cambiava dopo poche ore per rendere oltremodo difficili le inevitabili operazioni di spionaggio. Un giorno, alla porta esterna, mi trovai di fronte Trotskij e consorte. Quando il soldato li fermò, Trotskij, frugatosi in tasca, non trovò la sua tessera. «Io sono Trotskij», si presentò al milite. «Non avete la tessera», rispose quegli con scrupolo. «Non potete entrare, il nome non fa differenza per me». «Ma sono il presidente del Soviet di Pietrogrado». «Ebbene, se siete un personaggio così importante dovete avere in tasca una carta qualsiasi». Trotskij si dimostrò paziente. «Conducetemi dal comandante», chiese. Il soldato esitò, asserendo che non poteva disturbare il comandante per chiunque si fosse presentato senza documenti. Infine, si risolse a chiamare il sottufficiale. «Sono Trotskij», ripeté il presidente. «Trotskij», pronunciò l'altro grattandosi il capo. Mi sembra di aver sentito questo nome. Già, infatti. Va bene, potete passare, compagno. Nel corridoio, Karajan, membro del Comitato Centrale Bolscevico, si affrettò a spiegarmi come sarebbe stato il nuovo governo. Un'organizzazione oltremodo flessibile, fedele alla volontà del popolo, espressa per mezzo dei soviet, che lasci piena libertà alle forze locali. L'attuale governo provvisorio, esattamente come il precedente regime zarista, soffoca le volontà democratiche locali. Nella nuova società, l'iniziativa sarà presa dal basso. Il governo verrà forgiato sul modello del Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Il nuovo Zhik, responsabile nelle frequenti riunioni del Congresso Panrusso dei Soviet, sarà il Parlamento. A capo dei vari ministeri non nomineremo dei ministri, bensì dei collegi di funzionari, che dovranno rispondere direttamente ai Soviet. Il 30 ottobre mi recai da Trotsky, che mi aveva dato appuntamento in una piccola stanza collocata nell'attico dell'Istituto Smolny. Lo trovai seduto su una seggiola ordinaria di fronte a un tavolo vuoto. Non furono necessarie molte domande, mi parlò ininterrottamente per più di un'ora. Ecco, citando le sue stesse espressioni, il contenuto del suo discorso. Il governo provvisorio è del tutto inefficace. Dietro all'artificiosa coalizione con i partiti socialisti guerrafondai si cela il dominio della borghesia. I contadini, spossati dalla vana attesa della terra che è stata più volte promessa loro, sono in rivolta e il medesimo disgusto ha contagiato le classi lavoratrici di tutto il paese. La guerra civile, il metodo Kornilov, è per la borghesia lo strumento migliore per assicurarsi il potere, ma essa è priva di forza. L'esercito è dalla nostra parte. Conciliatori e pacifisti, socialisti rivoluzionari e menscevichi hanno ormai perso la propria autorità, perché la lotta fra contadini e proprietari terrieri, tra operai e padroni, tra soldati e ufficiali, è divenuta più profonda e irriducibile. Solo attraverso un'azione popolare, organizzata, e la vittoria della dittatura proletaria, la rivoluzione potrà portare a compimento la sua opera e salvare il popolo. I Soviet, data la loro esperienza rivoluzionaria, le loro idee e obiettivi, sono i più degni rappresentanti del popolo. Poggiano le loro fondamenta sui soldati al fronte, sugli operai, sui contadini, costituendo la spina dorsale della rivoluzione. Il tentativo di costituire un governo senza i Soviet è miseramente fallito. Tra i corridoi del Consiglio della Repubblica si pianificano progetti controrivoluzionari di ogni sorta. Se il partito cadetto rappresenta la controrivoluzione militante, i Soviet incarnano la vera causa del popolo. Tra i due non vi sono altri gruppi importanti, è la lotta finale. I controrivoluzionari, organizzate le loro forze, attendono il momento più propizio per attaccarci. La nostra risposta sarà decisiva. Completeremo l'opera iniziata a marzo e portata avanti durante l'affare Kornilov. In merito alla politica estera del nuovo governo, disse, il nostro primo atto sarà la richiesta di un immediato armistizio su tutti i fronti e la convocazione di una conferenza dei popoli per discutere le condizioni di una pace democratica. La quantità di democrazia che otterremo sarà direttamente proporzionale alla diffusione in Europa dello spirito rivoluzionario. Se riusciremo a creare un governo dei Soviet in Russia, esso sarà fautore di una pace immediata in tutta l'Europa, già che la richiesta di armistizio sarà rivolta direttamente ai popoli, trascendendo i governi. Nel momento in cui si stipulerà la pace, la pressione della Russia rivoluzionaria sarà indirizzata verso i seguenti principi: nessuna annessione, nessuna indennità, diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, costituzione di una Repubblica Federale Europea. Alla conclusione di questa guerra, l'Europa sarà ricreata non dai diplomatici, bensì dal proletariato, la Repubblica Federale Europea, gli Stati Uniti d'Europa. Ecco ciò che dovremmo costituire. L'autonomia nazionale non è più sufficiente. L'evoluzione economica richiede l'abolizione delle frontiere nazionali. Se l'Europa restasse divisa in gruppi nazionali, l'imperialismo potrebbe riprendere il suo cammino. Solo una Repubblica Federale Europea potrà garantire la pace nel mondo. Poi, con il suo consueto sorriso ironico, concluse: se oggi i popoli europei non porteranno avanti un'azione di massa, tali obiettivi non potranno essere raggiunti. Per quanto tutti si aspettassero una presa di potere violenta da parte dei bolscevichi, con tanto di uccisione dei cosiddetti colletti bianchi, l'insurrezione ebbe inizio in modo molto più naturale. Il governo provvisorio progettava di mandare al fronte la guarnigione di Pietrogrado. Questa, composta da circa 60.000 uomini, aveva svolto un ruolo decisivo durante la rivoluzione di marzo, creando i soviet dei soldati e respingendo Kornilov da Pietrogrado. Al suo interno, moltissimi bolscevichi. Allorché il governo aveva proposto l'evacuazione della capitale, fu proprio la guarnigione di Pietrogrado a rispondere: «Se non siete capaci di difendere la capitale, concludete un armistizio. Se non siete in grado, date le dimissioni facendo posto a un governo del popolo che saprà difendere la città e stipulare la pace». Il martedì mattina, 6 novembre, la popolazione notò con sorpresa sulle mura della città un manifesto firmato dal Comitato Militare Rivoluzionario del Soviet dei deputati operai e soldati di Pietrogrado. Alla popolazione di Pietrogrado: cittadini, la controrivoluzione ha sollevato la sua testa criminale. I partigiani di Kornilov si stanno mobilitando per schiacciare il congresso panrusso dei Soviet per far fallire l'assemblea costituente. Nello stesso tempo, gli istigatori dei pogrom tenteranno di trascinare il popolo in un bagno di sangue. Il soviet dei deputati, operai e soldati di Pietrogrado assumerà il compito di tutelare l'ordine rivoluzionario contro ogni tentativo di pogrom e contro ogni atto controrivoluzionario. La guarnigione di Pietrogrado non permetterà violenze né disordini. La popolazione è invitata ad arrestare i teppisti e gli agitatori dei Cento Neri e a condurli al commissariato del Soviet nella caserma più vicina. Ogni tentativo delle Dark Forces di scatenare lungo le strade di Pietrogrado saccheggi o battaglie saranno contrastati senza pietà. Cittadini, contiamo sulla vostra calma e sul vostro sangue freddo. Sappiate che la causa dell'ordine e della rivoluzione è in buone mani. Seguiva la lista dei reggimenti che avevano commissari in rappresentanza del Comitato Militare Rivoluzionario. Il 3 novembre i capi bolscevichi tennero un'altra storica riunione segreta. Informatone da Zalkind, attesi nel corridoio. Fu Volodarsky, uscito dalla sala, a mettermi al corrente dell'accaduto. A quanto pareva, Lenin aveva detto: «Il 6 novembre sarebbe troppo presto. Dobbiamo poter contare sull'intera Russia per l'insurrezione. Non tutti i delegati riusciranno ad arrivare per quella data. D'altra parte, l'8 novembre sarà troppo tardi. Per allora il congresso sarà organizzato e tutti sanno quanto per una grande assemblea costituita prendere provvedimenti rapidi ed efficaci sia maggiormente difficile. Dunque occorre agire il 7, giorno dell'apertura del congresso, così da potergli dire: ecco il potere. Cosa intendete fare?» Fuori, un vento freddo e umido soffiava da ovest e il fango ghiacciato filtrava dalle mie scarpe. Due compagnie Junker risalivano la Morskaya camminando rigide nei loro lunghi cappotti e intonando uno degli antichi cori che i soldati cantavano ai tempi dello zar. Al primo angolo di strada notai la milizia municipale a cavallo, armata di rivoltelle avvolte in nuove fiammanti custodie. Un piccolo gruppo di persone, attonito, li guardava in silenzio. All'angolo della Nevskij acquistai un opuscolo di Lenin dal titolo «I bolscevichi saranno in grado di mantenere il potere». Pagai con uno dei francobolli che all'epoca servivano da moneta corrente. Come di consueto, i tram traboccavano di cittadini e soldati in pose da equilibristi che avrebbero suscitato l'invidia di un grande acrobata. Sui marciapiedi alcuni disertori vendevano sigarette e semi di girasole. Nell'acerba luce crepuscolare la folla si contendeva gli ultimi giornali o si accalcava per leggere i molteplici appelli e proclami esposti dallo Chic, dalle organizzazioni contadine, dai socialisti moderati, dai comitati dell'esercito, ovunque vi fosse spazio. Alcuni avevano un tono minaccioso, altri maledicevano, scongiuravano, altri ancora invitavano operai e soldati a rimanere nelle case e nelle caserme ad appoggiare l'operato del governo. Una vettura blindata andava e veniva con la sirena accesa. Gli angoli delle strade ospitavano capannelli di soldati o studenti intenti alla discussione. Nell'oscurità sempre più fitta, i lampioni, dislocati a grande distanza gli uni dagli altri, cominciarono ad accendersi mentre il flusso umano pareva inarrestabile. Dalla città trapelava il tacito nervosismo che precede ogni tempesta. Eppure, non vi era alcun segno di movimento da parte dei bolscevichi. I soldati restavano nelle caserme, gli operai nelle officine. In un cinematografo nei pressi della cattedrale di Kazan proiettavano un sanguinario film italiano di intrighi e passioni. Vidi alcuni soldati e marinai nelle prime file con uno sguardo sgomento tipico dei fanciulli fissare lo schermo, incapaci di cogliere le motivazioni di tutta quella agitazione, di quella violenza, di quei crimini così efferati. Tornato all'istituto Smolny, fui informato che nella stanza 10 dell'ultimo piano il comitato militare rivoluzionario era riunito sotto la presidenza di un giovanotto di 18 anni dai capelli albini, un certo Lazimir. Questi, nel passarmi accanto, si fermò timidamente per stringermi la mano. «La fortezza di Pietro e Paolo è passata dalla nostra parte!» mi disse, malcelando la propria soddisfazione. Un minuto fa abbiamo ricevuto la delegazione di un reggimento richiamato dal governo a Pietrogrado. Gli uomini, sospettosi, avevano fermato il treno e mandato da noi una delegazione a chiedere quali sono gli ordini. Il nostro reggimento si è pronunciato a favore della delibera «Tutto il potere ai Soviet». Il comitato militare rivoluzionario ha risposto loro «Fratelli, vi salutiamo in nome della rivoluzione. Restate dove siete e attendete le nostre istruzioni». Aggiunse che tutte le linee telefoniche erano state tagliate, ma le comunicazioni con le caserme e le fabbriche erano garantite attraverso un'attrezzatura di telefotografia militare. Oltre al flusso ininterrotto di corrieri e commissari, una dozzina di volontari attendeva sulla porta per portare i messaggi nei quartieri più lontani. Uno di essi, dall'aspetto bohemien e l'uniforme da ufficiale, mi assicurò in francese «Tutto è pronto, non rimane che premere il pulsante».